24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7 e 32 minuti, eccoci cari ascoltatori con 24 mattino in diretta fino alle 9. Il sondaggio già votabile su radio24.it o il sole24ore.com. Parliamo ancora dell'aggressione a Berlusconi e di questo nuovo fronte che si è aperto online, sui siti, sui social network, moltissime migliaia di persone che inneggiano all'aggressore e il governo che dice valutiamo se oscurare i siti che inneggiano alla violenza. Che ne pensate? Siete d'accordo? Bisognerebbe oscurare questi siti che inneggiano alla violenza oppure no? State votando già in tanti, il 60% di voi per ora dice di no. Dunque libertà di parola anche di dire ciò che si vuole sulla rete. Votate, ne parleremo alle 8.30, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Con i titoli comprensibilmente e gran parte dei giornali ancora dedicati all'aggressione di domenica a Silvio Berlusconi. Dal Sole 24 Ore che apre così, fermare la politica esasperata, è quello che ha detto Napolitano. Non starò lontano dalla folla per il Corriere della Sera come apertura, c'è chi si concentra più su Napolitano, fermare la violenza per la Repubblica, Napolitano tutti misurino le parole per la stampa. Era tutto organizzato, altro che gesto isolato di un folle, il titolo di apertura del giornale, mentre Libero gli tirano altre statuette, soprattutto legato a Rosi Bindi e a Antonio Di Pietro. L'apertura dell'Unità, non perdete la testa, legato anche a proprio a quello che il governo ha annunciato, leggi speciali dopo l'aggressione, bavaglia la rete e pugno di ferro contro chi contesta. Mentre Il Fatto apre con il titolo aggressioni, Berlusconi ancora in ospedale a Milano, Tartaglia in carcere al centro neuropsichiatrico, da destra campagna di odio contro chi si oppone. Ma vediamo insomma i tanti articoli dedicati a questo. Sul Corriere della Sera c'è un Berlusconi che è definito ancora molto provato dal medico Zangrillo, il professore che lo ha in cura, che è anche il suo medico personale, dolore ma anche qualche battuta. Come faccio adesso? Non potete chiedermi di rinunciare a stringere le mani e andare in mezzo alla folla. Come faccio? Si chiede Berlusconi. Bossi che gli dice sembri un pugile. Il Corriere della Sera, tra l'altro, intervista Aldo Cazzullo, lo fa Don Verzé. Don Verzé è il fondatore del San Raffaele, dove è ricoverato Berlusconi. Ha già perdonato l'aggressore. Troppo odio, ora bisogna cambiare la Costituzione. Così dice Don Verzé, il problema è proprio l'odio e questo episodio è un monito, il segno che è davvero tempo di cambiare la Costituzione. Come ha trovato Fini? Chiede Cazzullo. Freddo, forse perché l'ho visto per strada. E Bersani? Caloroso, sinceramente dispiaciuto, è una gran brava persona, ci siamo anche dati un bacio. Di Pietro e la Bindi, che dicono che il premier ha le sue responsabilità, sono loro ad aizzare l'odio, ad aver ispirato il gesto di quel povero diavolo. È giusto dare più poteri al Presidente del Consiglio? Don Verzé parla anche di politica, le rare volte in cui parla. Se ne occupino gli addetti ai lavori, ma io cambierei l'articolo 1 della Costituzione così. L'Italia è una repubblica fondata non solo sul lavoro, ma anche sulla cultura. La politica divide, la cultura unisce. E poi Berlusconi mi ha detto, e questo riferisce Don Verzé, perché a me, perché mi odiano tanto al punto di volermi ammazzare? Io voglio il bene del paese, il bene di tutti. Tu, Don Luigi, lo sai che è così. Perché non se ne rendono conto? E alla fine perdonerà il suo feritore, l'ha già perdonato, dice Don Verzé. Non mi stupirei che chiedesse di incontrarlo. Tra l'altro c'è un editoriale e vari commenti ancora oggi sui giornali, un editoriale in prima pagina di Gianni Riotta, il direttore del Sole 24 Ore, dal titolo La ragione contro i mercanti di odio. Naturalmente non siamo negli anni di piombo, scrive Riotta, né la sanguinosa stagione del terrorismo ritornerà. La storia non si ripete come un goffo serial TV e combattere evocandoli fantasmi del passato serve solo a lasciarci inermi contro gli spettri del futuro. Il pericolo però, scrive Riotta, è che odio, rancore e risentimento inquinino a morte il discorso politico italiano. E più avanti, il volto sanguinante di Berlusconi su tutti gli schermi del mondo è un marchio per la Repubblica. Chi gongola contro un leader detestato, sperando in un meschino calcolo politico, è il vero folle e non vede come per gli italiani si tratta di una vergogna e di un'umiliazione, una ferita per tutti noi. Nel ricevere la solidarietà di tante voci, Berlusconi, che gli amici descrivono come scosso, si è chiesto perché mi odiano tanto e anche chi ha mosso in questi anni legittime critiche al fondatore di Forza Italia del PDL deve chiedersi ora perché ci odiamo tanto tra di noi, perché non sappiamo dare alla rivalità politica serenità anche di scontro ma senza violenza verbale e fisica. Così Gianni Riotta, il Messaggero, mette un editoriale di Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio, che scrive: la gravissima aggressione al Presidente del Consiglio ha colpito tutto il nostro paese, non solo la classe politica, tutti noi, ci ha colpito in modo profondo perché un atto di simile violenza non solo è un'inaccettabile offesa verso una persona che ricopre un'altissima responsabilità politica, ma costituisce una lacerazione della nostra vita democratica. Un atto di questo tipo, scrive Prodi, anche se proviene da un uomo debole, non è solo un'aggressione verso una persona, ma un passo indietro per tutta la nostra comunità. E poi, insomma, gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Mai più parole come pietre. Mentre ho scelto come altro commento quello del Manifesto in prima pagina di Valentino Parlato, di diverso tenore. Scrive Parlato: sono passati 2 giorni dall'aggressione a Berlusconi, ma in fasi di tensione queste aggressioni sono nel conto. Quanti bravi sindacalisti sono stati presi a bullonate? Qualche critica dovrebbe forse farsi ai 2 servizi d'ordine, privato e pubblico, che avrebbero dovuto fermare in tempo l'aggressore. Scrivere che se lo è meritato accusare i mandanti morali non ha senso, ma è certo, già lo fanno, l'agglomerato che si fa chiamare Popolo delle Libertà speculerà al massimo sull'episodio e magari metterà la piccola riproduzione del Duomo di Milano sulla propria bandiera. Già santificano la faccia insanguinata di Silvio. Insomma, tentando sempre di ragionare a mente fredda, scrive Parlato, è chiaro che il cavaliere in difficoltà ha guadagnato un punto con il colpo sferrato dal provvidenziale Tartaglia. Adesso promuovere una manifestazione di piazza contro Berlusconi è più difficile, ma non per questo si deve mollare. Il Manifesto titola "Miracolato" e c'è la foto di una mano che tiene una riproduzione del Duomo, insomma una riproduzione di quelle sono diventate il gadget più celebre d'Italia, insomma, una di quelle che Tartaglia ha scagliato contro Berlusconi. Ovviamente c'è molto anche sia di cronaca sia di commenti sull'annuncio proprio di Maroni, è il nostro sondaggio. Maroni e la violenza, stop ai siti, ha rischiato di essere ucciso. Si dividono, insomma, c'è chi santifica Tartaglio, vorrebbe santificarlo, c'è chi dice ti offro mia sorella, che poi insomma anche questo ti offro mia sorella per sposarla, insomma c'è chi dice santo subito, dall'altra parte i fan di Berlusconi che dicono vergogna, diamogli l'ergastolo, fascista Di Pietro, e centinaia di siti sull'aggressione, viva il lanciatore, vergogna, questa è la battaglia in rete con Secondo Repubblica. C'è da dire che il Libero addirittura scrive un esercito di Tartaglia in libertà, polizia postale in azione per bloccare i siti, si ipotizza il reato di istigazione a delinquere. Ci sono 2 commenti, Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Il tenore è questo, il lato oscuro della rete, il titolo. E si chiede Stella, ma davvero in democrazia un cittadino deve avere il diritto di dire le sciocchezze più grandi che crede, come teorizzò nel 2003 l'allora ministro della giustizia Castelli, mettendosi di traverso alla legge europea che voleva ridefinire i reati di razzismo e xenofobia? Roberto Maroni pensa di no e ha ragione, scrive Stella. Se è vero che la nostra libertà finisce là dove inizia la libertà degli altri, anche la libertà di parola, cioè il bene più prezioso dell'oro in una democrazia, ha un limite che non è solo il buonsenso, è il codice penale. Di diverso tenore Michele Ainis è un costituzionalista, firma in prima pagina della Stampa. No alla censura, basta un click. Per esempio, scrive Ainis nel suo pezzo, è un'edicola la rete? No, e non ha nemmeno l'autorità dei telegiornali, è piuttosto una piazza, sia pure virtuale, un luogo in cui si chiacchiera senza sapere bene con chi stiamo chiacchierando. Le chiacchiere poi hanno sempre un che d'aereo, di leggero, anche quando le vedi scritte sul video del computer sono sempre parole in libertà, meglio, sono lo specchio dei nostri umori, dei nostri malumori. sbaglieremmo a infrangere lo specchio, non fosse altro perché così non riusciremmo a modificare di un millimetro il nostro profilo collettivo. Dunque Michele Ainis dice no a bloccare i siti, perché insomma è un po' come chiacchierare in libertà sulla rete, su questo spazio virtuale che ben poco si identifica. Oh, c'è molto sia dell'inchiesta sia del lato, insomma, come è stato protetto Berlusconi. Per esempio La Stampa con Maurizio Molinari intervista un ex 007 di Ronald Reagan, uno che parla anche perché c'era quando hanno sparato a Ronald Reagan, quindi qualcosa che non ha funzionato anche lì c'è stato. Joseph La Sorsa era nel servizio segreto del presidente ai tempi dell'attentato. Ha detto sono stati fatti 3 errori a Berlusconi, a proteggere Berlusconi. Il più grave è la carenza di controlli della folla. Quando un leader è in posti affollati devono esserci spazi e corridoi che consentano agli agenti di tenere debita distanza alle persone. Poi l'assenza di un percorso protetto verso l'auto del premier. Infine la mancanza di metal detector. Certo, non si può impedire a chiunque di arrivare con degli oggetti vicini al leader, ma insomma se sono penne, matite è un conto, ma se non c'è un metal detector che intercetta un oggetto magari anche di metallo, allora la situazione è più seria. Carlo Bonini su Repubblica, i dubbi dei servizi sulla sicurezza gestita dagli uomini Fininvest. Secondo Bonini il problema è che ci sono sia una sicurezza dello Stato, sia la sicurezza voluta dal premier, uomini della Fininvest, insomma. Ci sarebbe incompatibilità tra le due protezioni. L'incompatibilità maggiore è questa. Un capo scorta della Fininvest, secondo alcune fonti di Bonini, non potrà mai imporsi sulle decisioni del suo datore di lavoro, anche sapendo che questo può pregiudicarne l'incolumità. Tutt'al più proverà a ridurre come meglio può il rischio, mentre la sicurezza dello Stato dice ha il dovere di farlo e il capo scorta decide, non il presidente. Questa sarebbe l'incompatibilità. C'è infine tutto su chi è questo Tartaglia, ancora insomma si va un po' a scavare nella sua vita, non sono il killer di nessuno, leggo dal Corriere della Sera, Tartaglia che ha scritto anche una lettera al premier chiedendo sostanzialmente scusa. Quello lì, avrebbe detto nella notte Tartaglia, quello lì è Berlusconi. Quello lì sta rovinando l'Italia, non mi va bene niente di quello che dice. Avevo deciso di andarmene dalla piazza proprio per questo, non condividevo quello che stava dicendo al microfono, cercavo la metropolitana, ho sentito delle voci, gente che protestava, sono tornato indietro, mi sono girato e mi sono trovato Berlusconi a pochi passi. Non ci ho visto più e a quel punto mi è venuto l'istinto di colpirlo con tutta la mia forza. C'è anche questo giallo, per chi ha visto ieri Striscia la Notizia, lo riepiloga il Corriere della Sera, di due fratelli che avrebbero sentito Tartaglia gridare contro Berlusconi, minacciare un'aggressione poco prima di eseguirla, avrebbero intercettato una pattuglia della polizia, un agente che era al telefono li avrebbe liquidati dicendo chiamate il 113. Insomma, il giallo è questo, ma insomma, la Tartaglia poteva essere fermato prima, la questura di Milano starebbe facendo chiarezza anche su questo. Vabbè, rassegna stampa, come vedete, catalizzata molto ancora da questo tema. Il sondaggio, ripeto, è quello, oscurare o no i siti internet di istigazione possibile alla violenza, quelli per esempio che santificano Tartaglia. Che ne pensate, sì o no? Votate sul sito. In primo piano. Vediamo qualche altra notizia che troviamo sui giornali, a cominciare dal Sole 24 Ore. Le banche vogliono lo scudo quater. Allora, oggi è l'ultimo giorno per lo scudo fiscale. 15 dicembre si chiude la finestra per l'operazione di scudo fiscale, una deadline che prima era il 15 aprile 2010, poi è stata anticipata, come ricorda Isabella Bufacchi oggi sul Sole. Scudo fiscale ter che non si è ancora chiuso, siamo all'ultimo giorno, ma già si chiede e si punta allo scudo quater. Una sorta di riapertura della finestra che si chiude oggi servirebbe ad assorbire quel 20-30% di potenziali scudanti rimasti tagliati fuori. Cioè c'è allo studio una possibile estensione fino al 15 aprile 2010, quella prima data che era stata fissata in origine. Vedremo insomma se viene esteso. Scrive Isabella Bufacchi: lo scudo Ter passerà alla storia soprattutto per i rimpatri fisici e giuridici provenienti prevalentemente dalla Svizzera, come anche per le dimensioni che saranno senza precedenti, da record, ben oltre le stime più ottimistiche che superano abbondantemente i 73 miliardi dei primi due scudi messi insieme. Perfino i 100 miliardi prospettati da fonti della maggioranza ben informate la scorsa settimana ieri parevano già lontani, lievitati a 110 secondo fonti parlamentari, se non addirittura quota 114 miliardi di rientro, equivalenti dunque a 2 miliardi di extra gettito rispetto ai 3,7 registrati in finanziaria. E vabbè, questi sarebbe, poi si può discutere se lo scudo sia stato giusto o no, ma questi sono i conti o le previsioni di conti di quello che sarebbe il rientro. Voglio andare su Repubblica, una notizia che ha solo Repubblica, meglio in modo così ampio. Il governo taglia la pubblicità a Sky. È Claudio Tito che scrive questo articolo. Pronto il decreto. Ricordate, un anno fa era stata la volta dell'IVA per gli abbonamenti alla Pay TV, portata di colpo al 20%. Ricordo una battaglia incredibile. Adesso la sfida tocca i tetti di raccolta pubblicitaria. Sarebbe l'ennesima battaglia di guerra tra Mediaset e Sky, tra Silvio e Rupert, vale a dire Murdoch. Sostanzialmente, secondo un decreto messo a punto dal viceministro Romani e che per Repubblica dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già questo giovedì, a meno che insomma l'incidente al Premier ovviamente non porti al rinvio del Consiglio dei Ministri, ci sarebbe un limite che dovrebbe scendere al 12% di pubblicità ogni monte, ogni ora sostanzialmente. Sarebbe sostanzialmente la pubblicità non può eccedere il 12% di una determinata ora d'orologio. Un danno che si concentra proprio su Sky, secondo Repubblica, vale per tutti, anche per Mediaset Premium, però si sottolinea che Mediaset Premium per ora non ha ancora raggiunto il tetto del 12%, dunque il danno pratico sarebbe soprattutto per Sky. Vedremo insomma se ci saranno sviluppi su questo fronte. C'è ancora molto su Copenaghen. Noi ci dimentichiamo, c'è un vertice sul clima che un po' stancamente, un po' blandamente e un po' tra rischi di colpi di scena va avanti. La trattativa rischia il naufragio, leggo dal Sole 24 Ore. L'inviato Jacopo Giliberto spiega bene come ieri innanzitutto l'Africa e il G77, cioè i 131 paesi non sviluppati, hanno abbandonato la sala della riunione plenaria per protesta. Per esempio molti volevano che i contributi finanziamenti ambientali promessi, innanzitutto contestavano, sono solo briciole, e poi non vogliono alcuna forma di controllo sulla gestione dei fondi. L'India che dice: se entro il 16, che poi domani, non ci sarà un concordato documento, non ci sarà alcun accordo. Insomma, una trattativa durissima, scrive Jacopo Giliberto. Negoziatori che non ricordano da anni così colloqui così serrati, secondo alcuni delegati, in qualche caso è poco è mancato che volassero gli sganassoni, scrive Giliberto. Chissà se si arriverà a un accordo. Anche La Stampa: l'Africa si ribella, dateci più aiuti o ce ne andiamo. Si è sfiorato il fallimento, certamente. Voglio andare alle ultime segnalazioni. Ricordate i 150 km orari? Il ministro Matteoli ha detto in alcuni tratti delle autostrade, una proposta leghista. Beh, oggi sempre il Corriere della Sera dice che siamo vicini al retrofront, un dietrofront non tanto politico quanto tecnico. La sorpresa, scrive Lorenzo Salvia, è venuta fuori analizzando i progetti di costruzione delle autostrade italiane. Quasi tutta la nostra rete, dicono i tecnici, è stata realizzata considerando come velocità massima di sicurezza i 140 km orari. E dunque i limiti a 150 dal punto di vista tecnico sono un po' difficili. Addirittura c'è un senatore del PDL, Cosimo Izzo, che vuole addirittura portare a 160 i limiti. Per questo il ministero sembra intenzionato a scegliere la prudenza e tirarsi fuori dalla contesa. Dunque, chissà, credo i 150 all'ora non dovrebbero arrivare. Voglio andare in Gran Bretagna per citare come chiusura questa gaffe del principe Filippo, uno che di gaffe ne ha fatte tantissime nella vita. L'ultima del principe Filippo di Edimburgo è questa: accompagna la regina Elisabetta a una cerimonia ad Hyde Park, si avvicina un ragazzino di 15 anni che è quasi del tutto privo della vista. Perché? Perché è stato vittima di un attentato dell'IRA. Si chiama Stephen Mannery, ha perso quasi completamente la vista. La regina Elisabetta si sforza di dimostrare un po' di calore umano e chiede quanto riesce a vedere il ragazzo. E prima che possa rispondere qualcuno, il principe Filippo si intromette e dice così: non deve vedere molto, a giudicare dalla cravatta che porta. Chissà se sono gaffe volute o è proprio così, insomma. Vabbè, mi verrebbe una parola, ma poi mi querelano anche dalla Casa Reale Britannica, non ho abbastanza soldi da pagare. No, l'ultima chiusura è dal secolo XIX, farà sicuramente discutere. Ricordate Povia, il cantante che l'anno scorso a Sanremo portò Luca era gay, questa canzone con tante annesse polemiche? Ebbene, ci riprova, nel senso che un'altra canzone che sicuramente farà discutere, ma la direzione del festival deve sciogliere le riserve, la notizia la trovate solo sul secolo XIX, quotidiano di Genova, comprensibilmente, canterà una canzone, ha scritto una canzone su Eluana Englaro. La porterà, se ci sarà il sì del direttore artistico Gianmarco Mazzi e di Aldela Antonella Clerici, la conduttrice, che stanno vivendo ore tormentate, dice il secolo, perché se l'accettano il successo mediatico è garantito, ma anche le polemiche, una canzone su Eluana Englaro con un testo che si preannuncia farà molto molto discutere. E dovrebbe esserci anche Beppino Englaro a Sanremo sul palco. Eccoci alle 8:19 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, non perdiamo tempo, l'economia. Soldi e dintorni. C'è qui Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Scalpitante. Scalpito perché Eccoci. Stamattina abbiamo un ospite al quale teniamo molto. Bene. Il presidente dell'Autorità del Gas e dell'Energia, Alessandro Ortis. Presidente, buongiorno e grazie di essere con noi a Soldi e dintorni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Questa mattina ho evitato di fare tutto il preambolo al tema che vorremmo affrontare, ho preferito prima salutarla. Allora, stamattina parliamo di gas, della spesa per il gas che viene sostenuta dalle famiglie italiane. Ne abbiamo parlato già nei giorni scorsi, anticipando quanto aveva ipotizzato Nomisma Energia relativamente al possibile aumento tariffario che dovrà essere definito, se l'autorità deciderà di farlo a fine mese, per il primo trimestre del prossimo anno, un aumento che dovrebbe essere del 2,8%, quantificabile in una spesa annuale per le famiglie di circa 26 euro, ma in attesa che l'autorità del liberi su questo, il 29 dicembre, l'autorità ieri è partita con un'altra iniziativa che sempre dai microfoni di Soldi e dintorni avevamo anticipato già da luglio, se ne parla già da diversi mesi, da ieri si è concretizzata appunto la misura del bonus gas che potrà essere richiesto dalle famiglie in difficoltà economica ai comuni per sconti sul pagamento delle bollette del gas appunto di circa il 15%. Presidente, e allora si può fare domanda già da oggi, poi definiremo anche i parametri che bisogna avere appunto per poter fare questa domanda. Si può partire dunque già da oggi? È proprio da oggi che si può partire. Lei accennava peraltro prima alle previsioni dei prezzi del gas. Ecco, effettivamente, attenzione, sono previsioni perché l'autorità dà i dati finali a fine trimestre, ogni trimestre, quindi faremo i conti e vedremo di che si tratta la variazione. Ma come giustamente sottolineava lei, comunque c'è questa buona notizia del bonus gas per le famiglie bisognose. E la domanda può essere fatta al proprio comune a cominciare da oggi. D'altra parte i moduli sono già disponibili sui siti e anche presso i comuni. La domanda ha una procedura semplice, peraltro ricalca esattamente la stessa procedura già utilizzata per il bonus elettrico, quindi chi già fruisce del bonus elettrico sappia che il bonus gas è cumulabile, anche perché fa riferimento agli stessi parametri di bisogno, quindi agli stessi indicatori secondo i quali si è ammessi a questa opportunità. Si tratta effettivamente di famiglie che hanno un indicatore di situazione economica equivalente al di sotto di 7.500 o al di sotto dei 20.000 nell'ipotesi che ci siano 4 o più figli. Quindi se la famiglia è più numerosa. Presidente, si calcola che possano essere almeno 3 milioni le famiglie che vadano a fare richiesta del bonus gas, che sono esattamente, come dire, esattamente quella platea al quale si rivolgeva anche il bonus elettricità. Ecco, quell'operazione lì come si è conclusa? Quante famiglie ne hanno fatte richiesta? Esiste un monitoraggio fatto da voi o fatto anche dall'Associazione dei Comuni, perché poi avete lavorato direttamente con l'ANCI per dare l'opportunità alle famiglie di usufruire di questo sconto? Approfitto per ringraziare ringraziare veramente la collaborazione offertaci dall'ANCI e dai vari comuni che sul territorio hanno il migliore dei dialoghi evidentemente con le persone bisognose. Il bonus elettrico, altro che monitorato, lo seguiamo passo passo e sono già state ricevute più di 1.300.000 domande e di queste già più di 1.000.000, per l'esattezza 1.100.000 grosso modo, sono i beneficiari che già stanno godendo di questa opportunità. Mi fa piacere anche sottolineare il fatto che sono più di 12.000 addirittura gli ammalati, ahimè costretti a utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita, che beneficiano di questo bonus. Ora, noi prevediamo che per quanto riguarda il gas più o meno si arrivi allo stesso valore, allo stesso livello del 1.000.000 di famiglie, tenendo poi conto che il bonus elettrico probabilmente si allargherà e salirà a un numero da 1.500.000, perché teniamo conto sempre che gli utilizzatori, i consumatori di energia elettrica, il numero di utenti per l'energia elettrica è superiore a quello per il gas. Quello per il gas è dell'ordine di 19 milioni in totale, parlo di consumatori domestici, quello elettrico 28 milioni. Dunque ci attendiamo in prospettiva 1.000.000 di beneficiari. Allora, lo sconto sarà applicato annualmente, dicevamo dovrebbe essere di circa il 15% al netto delle imposte sulla bolletta del gas metano. Le riduzioni in termini economici andranno dai 25 fino ai 160 euro per le famiglie fino a 4 componenti, dai 40 ai 230 euro per le famiglie più numerose con più di 3 figli. Come mai queste forbici di sconto così variabili, Presidente? È perché diversamente dal bonus elettrico, che aveva solo 3 fasce di numerosità, diciamo, no? Valori che si applicavano a diversi livelli di numerosità della famiglia, nel gas necessariamente, giustamente abbiamo dovuto tener conto non solo della numerosità delle famiglie, lei l'ha citata poco fa, inferiore o uguale a 4 membri o superiore ai 4, ma nel caso del gas noi dobbiamo anche distinguere il tipo d'uso, cioè c'è chi utilizza il gas per la cucina e l'acqua calda, c'è chi lo utilizza per il riscaldamento e c'è anche chi lo utilizza per tutte e due queste tipologie. E di più, quanto all'uso, abbiamo elaborato un sistema che ci consente di tener conto anche di famiglie non abbienti che eventualmente utilizzino il gas tramite il condominio con un riscaldamento centralizzato. Ed ecco il terzo elemento che chiamano differenziazione di questi valori, che è la zona climatica. È evidente che nel nostro paese ci sono aree dove le temperature sono più basse e aree dove non è così, per cui siccome per legge il paese è diviso in 6 zone climatiche, abbiamo ritenuto opportuno che questo bonus tenesse anche conto di questa maggior o minore impegno in ragione della temperatura, per cui ci sono 6 zone climatiche. Ecco, ci sono in definitiva 3 parametri: numerosità, uso, tipo d'uso del gas che si fa a casa e la zona climatica. Ecco, questi 3 elementi generano vari valori che sono tabellati, peraltro chi visita il nostro sito può anche farsi fare il calcolo, basta inserire il proprio comune, benissimo, il proprio indirizzo e facilmente si sa quant'è e come diceva lei si va dai 25, che è il minimo dei minimi, fino al 230, che è il massimo in zona climatica. Quindi primo contatto quello con l'amministrazione comunale, poi naturalmente per chi non volesse andarci, volesse solo informarsi su tutto il sistema dei bonus che è stato appunto stabilito dall'autorità del gas e dell'energia, si può andare sul sito dell'autorità, si può andare anche sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche sul sito dell'ANCI, dell'Associazione dei Comuni Italiani. Un'ultima domanda, Presidente, perché devo ridare rapidamente la linea ad Alessandro Milan. La domanda si presenta da oggi fino al 30 aprile 2010 per chi volesse avere il bonus riconosciuto retroattivamente, no, per tutto il 2009. Poi però si può continuare a fare la domanda. C'è dubbio, chi la fa entro il 30 aprile vede riconosciuto tutto il 2009, quindi prende dentro l'inverno passato, buona parte di esso, questo e altro. Ma comunque sia, si può fare la domanda in qualsiasi momento e dopo la domanda ammessa si ha la validità del bonus di 12 mesi, bonus che naturalmente ogni 12 mesi può essere rinnovato con un rinnovo della domanda che certifica la variazione delle condizioni familiari. Presidente, Per quanto riguarda la richiesta semplice di altre informazioni che mi rendo conto possano essere interessanti per chi ci ascolta, darei il numero verde dell'autorità al quale si può chiamare e avere tutte le informazioni. E il numero è 800 166 654. Benissimo. Presidente Ortis, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Presumibilmente ci potremo anche sentire a fine dicembre per verificare appunto le variazioni tariffarie su gas ed elettricità. Su queste non dovrebbero esserci, se non ho capito male dalle previsioni di altri organismi, ma voi appunto direte la parola finale. Ci sentiamo a fine mese. Allora, Presidente, Benissimo. Intanto buon Natale. Saluto lei, buon Natale a tutte le ascoltatrici. Arrivederci. Ascoltatori. Da Alessandro Ortis ad Alessandro Milan. Beh, insomma. Acquisti natalizi, outlet, sotto Natale, come si stanno comportando, che occasioni troviamo, insomma, oggi alle 12 a Salvatanaglio. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le ultime notizie, seconda notte al San Raffaele per Silvio Berlusconi, intanto il suo aggressore Massimo Tartaglia gli ha scritto una lettera di scuse in cui esprime il dispiacere per un atto superficiale, vigliacco e inconsulto. Di ieri anche l'appello del presidente Napolitano che dice fermate le violenze. A Copenaghen rischio di rottura, ieri al vertice ONU sul clima i paesi in via di sviluppo hanno minacciato di lasciare le trattative, minaccia poi rientrata dopo le rassicurazioni sugli impegni dei paesi industrializzati. In Iraq almeno 4 persone sono rimaste uccise questa mattina per un attentato. C'è stato un attentato anche a Kabul in Afghanistan, almeno 5 le vittime. E infine una canzone su Eluana Englaro, è la sfida del cantante Povia che vorrebbe portare al prossimo Festival di Sanremo il brano insieme al papà di Eluana, Beppino Englaro. Lo rivela oggi il Secolo XIX. Ora la decisione finale spetta alla direzione artistica del festival. E dunque sono le 8:34 minuti, parliamo in qualche modo ancora dell'aggressione al presidente del Consiglio Berlusconi e di quello che si è scatenato e si sta scatenando sui siti internet. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Forse il social network più monitorato è Facebook, no? Forse anche quello più famoso. Basta entrare lì per chi ha il profilo, digitare Massimo Tartaglia, escono fuori siti, io li ho monitorati anche poco fa, insomma fan, migliaia di fan, c'è chi inneggia Tartaglia, c'è chi sugli stessi siti dice una vergogna. La proposta del Ministero degli Interni è dire valuteremo se è il caso di oscurare i siti che inneggiano alla violenza. È un fenomeno che si è verificato subito, praticamente a partire da poche ore dopo l'aggressione a Silvio Berlusconi. Io voglio salutare intanto il sottosegretario degli Interni Alfredo Mantovano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Senta, un sito in cui, che ne so, io ce l'ho qua, per esempio si parla di nano malefico, e lei immagino, insomma, sappiamo a chi si riferisce, alla persona che lo scrive, oppure in cui si dice santo subito Tartaglia, ti do mia sorella da sposare. Cioè che dovremmo fare? Un'incitazione alla violenza va chiuso? Oppure come scrive il costituzionalista Michele Ainis oggi sulla stampa, ma la rete è una piazza, è come parlare in piazza, insomma in piazza si chiacchiera, si dice, si dà sfogo anche ai propri malumori. Con tutto il rispetto del costituzionalista, ma se io in piazza minaccio o ingiurio o diffamo o calunnio una persona, non è che la piazza è l'oasi che mi esenta da qualsiasi responsabilità. E se vogliamo usare in termini virtuali l'analogia con la piazza, ci sono dei reati che sulla rete vengono commessi. Credo che la difficoltà non debba essere di principio sulla punibilità di chi viola delle norme del codice penale, cioè di comportamenti che se fossero messi in atto, come spesso accade al di fuori della rete informatica, incontrerebbero immediatamente le forze di polizia e poi l'autorità giudiziaria. Il problema è capire come superare gli ostacoli tecnici che ci sono e alcuni ostacoli di carattere procedurale che ci sono per evitare che ci sia una sorta di impunità e di minacciare o di praticare una violenza anche solo verbale verso la rete. E la minaccia sì, però se io scrivo santo subito Tartaglia, è uno sfogo stupido o è una minaccia, voglio dire? Beh, io credo che lo spazio della stupidità sulla rete abbia un posto non marginale e che non tutto si cada sotto la sanzione penale. Quindi insomma c'è anche molto sfogo, molta stupidità. Beh, però devo dire, lasciamo lo spazio a chi poi dovrà interpretare la norma. Questo sì. Ecco, bisogna vedere in che contesto certe parole vengono dette, insomma, stabilire dei criteri rigidi a priori mi sembra sbagliato, poi sarà il giudice nel caso concreto a valutare la contrarietà rispetto a una norma di legge. Ma cosa sarebbe allo studio? Perché il ministro Maroni ha detto già forse giovedì c'è il Consiglio dei Ministri, a meno che chissà, insomma non so se si terrà, visto anche le condizioni del Presidente del Consiglio, chissà se verrà rinviato o no, questo lo scopriremo. Ma nel caso, allo studio che cosa sarebbe in concreto? Cioè un disegno di legge, un decreto legge? Adesso è allo studio tutto, anche lo strumento. Però, come gli ascoltatori, come lei sa, il discorso non è nuovo, ce lo si è fatto svariate volte qualche mese fa da alcuni siti e su alcune reti informatiche ci furono delle vere e proprie apologie nei confronti dei mafiosi e anche lì ci si pose il problema di come intervenire. Purtroppo quando la base di smistamento usa un linguaggio assolutamente atecnico di questi messaggi è fuori del territorio nazionale, anzi al di fuori del territorio europeo, perché sappiamo che per Facebook si parla sì, di uno degli Stati Uniti, cioè della California, tutto ciò in termini di tentativo di oscuramento di siti proprio per realizzare un'attività di seria prevenzione incontra i limiti della territorialità. Sì. Il paradosso che deve essere posto però all'attenzione dei nostri partner è che questi reati vengono commessi superando i limiti della territorialità e quindi è necessaria una base comune per non limitare la libertà di espressione, ma limitare l'abuso di questa libertà e quindi la consumazione. No, certo, giuridicamente non è facile. Intanto la stanno ascoltando, sottosegretario, voglio salutarle anche Pancio Pardi, buongiorno, che è senatore dell'Italia dei Valori, buongiorno. E voglio salutare anche Alessandro Giglioli, buongiorno Alessandro, buongiorno, giornalista dell'Espresso, ma devo dire anche autore del blog, un blog seguitissimo, Piovono Rane, e, tra l'altro ogni tanto, so che ci ascolto, ogni tanto siamo finiti anche noi, bisogna sempre stare attenti, Piovono Rane è sempre seguitissimo, ogni tanto finisco anch'io, vengo beccato, pizzicato. Oggi, aprendo Piovono Rane, c'è la frase di Gabriella Carlucci, Alessandro, che dice più o meno: i social network non sono più luoghi di incontro e socializzazione, ma pericolose armi in mano a pochi delinquenti che sfruttando sì, la Carlucci compie forse un poco come dire, avvezza la rete, compie una classica sineddo, che cioè prendere una parte per il tutto, una piccola parte per il tutto. È vero il contrario di quello che dice la Carlucci, cioè che i social network sono in gran parte un luogo di incontro e di socializzazione dove ci sono anche degli idioti. Le proporzioni sono esattamente rovesciate rispetto a quello che dice la Carlucci. Ma rispetto a quello che diceva il sottosegretario Mantovano, io vorrei chiedergli se lui tenderebbe a oscurare un sito nel quale c'è la seguente frase: Bindi di Pietro Travaglio, vermi schifosi, sappiamo dove siete. Perché se tende a oscurare anche questo sito, deve oscurare il sito del suo partito. Beh, insomma, credo che valga a livello trasversale, no? Sì, sì, no, ma quello che sto dicendo è una cosa un pochino, al di là della provocazione e della battuta, nel sito del Popolo della Libertà c'è una piattaforma aperta ai contenuti degli utenti, esattamente come è Facebook, nella quale si riversano i pareri i più diversi e anche le stupidità le più diverse. Questo vale, temo, per quasi tutto il cosiddetto web 2.0, cioè per la rete fatta dagli utenti. Vale probabilmente, Milan, anche per i 100 erotti bellissimi blog che avete al Sole 24 Ore, vale sì, per quello che abbiamo all'Espresso. Allora, se cominciamo a dire che bisogna oscurare o monitorare, che poi sono due cose diverse ma entrambe molto preoccupanti, tutti i siti che hanno aperto i contenuti agli utenti, finiremmo probabilmente per oscurare il 90% della rete italiana, incluso il sito del... Allora, prima della risposta del sottosegretario, vediamo se Pancio Pardi, anche lui, lei senatore, la preoccupa qualcosa di questo possibile annuncio, così poi il sottosegretario risponderà a entrambi, no, nel caso. Prima cosa cosa mi preoccupa è il fatto che Mantovano si preoccupi tanto dell'impunità di gente che scrive frasi e non si preoccupa invece dell'impunità che Berlusconi si è procurato da sé con le sue mani, cambiando la legge sul falso in bilancio e risultando impunito per un reato che gli era stato attribuito. Però questo è un altro tema, non ne abbiamo parlato tante volte. È Mantovano che me l'ha fatto venire in mente. Vabbè. Quanto al resto, sono perfettamente d'accordo con Giglioli, la questione è molto semplice, qui c'è la differenza tra il dire e il fare. Nei siti, nei blog, in Facebook si scrivono, si dicono sciocchezze, si dicono cose simpatiche. Se si entra nell'ordine di idee che ci si può ergere a censori di espressioni verbali che circolano in rete, non si sa dove si va a finire. Cioè il limite non è certo, e quindi la cosa migliore, di gran lunga migliore su tutte, è non fare comunque censura. Non fare censura. La censura, quando uno scrive una fesseria, dopo un po', diciamo, esiste il riconoscimento sociale che ha detto una fesseria. Allora, queste due obiezioni, sottosegretario, vuole rispondere sia a Giglioli che a Pancio Pardi? Che giornalista, vorrei dire che ritengo che la sua domanda sia retorica, nel senso la risposta è scontata. Chiunque commetta dei reati, a qualunque partito e con qualunque mezzo li commetta, deve incontrare delle sanzioni e gli strumenti che adopera devono essere tolti di mezzo. Forse trascuriamo che da qualche anno esiste una legge in base alla quale se degli sciagurati espongono delle striscioni razzisti negli stadi, la società nel cui stadio avviene questa esposizione ha delle sanzioni, coloro che commettono questi reati, se vengono identificati, e ciò avviene nella gran parte dei casi, vanno di fronte al giudice, poi il giudice decide di volta in volta e non sempre in modo rigoroso, ma questo è un altro discorso, e spesso si chiudono anche gli stadi proprio per impedire, in caso di comportamenti ripetuti, per far capire quanto è grave la lesione verbale. Se io dovessi seguire, lasciamo perdere il discorso del falso in bilancio, che è una legge votata democraticamente, sì, da un Parlamento democraticamente eletto. No, poi non è il tema, sennò poi dopo. Sì, però è stato portato questo augusto argomento. Però se dovesse valere il ragionamento del senatore Pardi, a questo punto le scritte razziste, che io non ripeto ovviamente, nei confronti di calciatori di colore o nei confronti di soggetti che hanno degli handicap, dovrebbero essere esenti da qualsiasi non censura ma sanzione penale, come invece è doveroso che ci sia. Allora andiamo al traffico, poi rientriamo. C'è da dire che per il momento nel nostro sondaggio credo il 60% dice di no, ma non bisogna oscurare questi titoli, il 61% per la verità. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, siete d'accordo con l'ipotesi del governo di oscurare i siti che inneggiano alla violenza? Ovviamente episodio che è ritornato alla ribalta dopo l'aggressione a Berlusconi e il proliferare anche di siti a favore dell'aggressore Tartaglia. Se sono brevi, due ascoltatori. Danilo dalla provincia di Vercelli, che pensa, pro o contro? Bianco o nero? Sì, buongiorno. Dica. Io sono contro, perché innanzitutto contro l'oscurare i siti, contro sì. Perché ritengo innanzitutto che sia un atto democratico e in qualche modo anche una forma di violenza, quindi non si combatte la violenza con violenza, ma non si parla solo di violenza fisica, ma anche violenza nel violare i diritti altrui. Inoltre, sì, è anche violare un diritto altrui se uno compie un reato, però questa è la discussione. Non credo che sia un reato, perché se fosse un reato più che oscurarlo va perseguito. Istigazione alla violenza, insomma. Comunque va perseguito se rientra nella fattispecie del reato. Inoltre mi sembrerebbe un voler chiudere gli occhi su una situazione che potrebbe veramente degenerare se ignorata, nel senso che questo è stato un episodio, è vero, però quello che si è creato dopo e anche prima ha manifestato che c'è un gran malcontento in una grande parte della cittadinanza. E che c'entra? Quindi prendiamo una riproduzione del Duomo. Signora, io sono arrabbiato con lei, vengo a Vercelli e gli tiro in faccia una riproduzione del Duomo. Ma non è questo che voglio dire che le persone che sono arrabbiate si arrabbieranno ancora di più di essere state bloccate nella loro espressione. Questo. A rischio di esacerbare gli animi per questa censura. Va bene, Antonio da Milano, buongiorno. Che dice? No, No, allora dico che questa piazza virtuale non è espressione reale dei malumori delle persone. Le persone che vanno su internet e che pubblicano questi siti sono delle persone che non hanno la peggiorattività della contrapposizione, perché non vedono una persona, non c'è una reale dialettica. Loro pigliano, pubblicano, sono un po' come dei cecchini, quindi sono delle persone stupide che fanno queste cose senza avere il ritorno appunto di una lei dice: io sono davanti al mio computer, scrivo quello che mi sfogo, magari, che ne so, sono arrabbiato perché uno mi ha tagliato la strada in macchina, e scrivo quello che mi pare. Esattamente. Vabbè, e quindi? E quindi sono contro, cioè, questi siti, per cui sono secondo me. Sì, nel senso, ma cioè, che non è che sono questi siti, perché io su questo vorrei tornare un attimo da Giglioli e ribadire quello che ha detto ancora per Mantovano. Cioè, non è il sito, può essere anche Piovono Rane, che è un sito molto serio. Io posso entrare e scrivere, no, Alessandro, me lo confermi, posso entrare oggi e dire che il politico Pinco Pallo deve essere ammazzato dal primo che passa. No, non solo, ma il mio sito è pieno di gente che insulta me medesimo. Io non censuro nessuno, li lascio fare, perché vede, qua è in gioco una cosa molto più importante di quella che ci siamo detti, cioè è in gioco il principio della tolleranza e della società liberale, è in gioco il principio in base al quale si paga un prezzo, che è la stupidità di chi insulta, per avere qualcosa di più importante, cioè la libertà di ciascun utente di poter parlare in rete. C'è una ancora più dietro, c'è un problema più ampio, cioè c'è il problema che in Italia internet è forse l'unica piattaforma nella quale il controllo, mi permetto di dirlo, di Berlusconi e della sua compagnia mediatica è scarso. E infatti non è un caso che l'Italia sia l'unico paese dove, a parte la Cina e la Birmania, dove si pone il problema della censura delle cosiddette hate page, appunto i contenuti d'odio, che sono invece, ahimè, perché a me non piace che ci siano ovviamente, ma ahimè molto diffusi in tutto il mondo, e si paga questo prezzo. Beh, non so se Italia, Italia, Cina, Birmania, la televisione è controllata al 90% da una sola persona e da una sola parte politica, da mesi, non è adesso la questione, da mesi ci sono tentativi di censura, perché c'è stato il decreto sulle intercettazioni di Alfano, all'interno del quale c'è una norma che ammazzerebbe tutti i blog italiani, c'è una proposta di legge della Carlucci che di fatto ucciderebbe il web 2.0, c'è una proposta di legge di Pecorella che pure ucciderebbe i blog, c'è oggettivamente un'offensiva, e non gli è sembrato vero a una parte della politica italiana che, a seguito del gesto sconsiderato di un signore che non so neanche se sia mai stato su Facebook o in internet, ha fatto una follia e si utilizza questa follia per censurare per la rete. È questo Mantovano, problema italiano. Italia come Cina e Birmania, dice Giglioli sostanzialmente in questo contesto. Mi vengono i brividi, nel senso che non si può uccidere il blog, ma si può uccidere Berlusconi, e non in senso metaforico, visto che è roba di centimetri. Io resto allibito, perché nel codice penale esistono delle norme contro la pedopornografia. È noto, la pedopornografia ha una sua dimensione online, e nessuno ha mai protestato perché la polizia postale svela gli utenti di questi siti, li mette a disposizione dell'autorità giudiziaria, e quindi permette che siano sanzionati con l'oscuramento dei siti medesimi. Ora, nel medesimo codice penale, in cui ci sono le norme contro la violenza sessuale e contro la violenza ai minori, ci sono anche le norme contro la minaccia, la diffamazione, l'ingiuria, la calunnia e così via. Si può immaginare una gradualità, è ovvio, di sanzioni anche nei confronti degli strumenti, nel senso che sono comportamenti obiettivamente meno gravi rispetto a quelli di violenza sessuale, ma non si può invocare un'area di totale impunità solo perché esiste questo mezzo. Dice l'ascoltatore: ma io davanti, io comunque una persona qualsiasi davanti al computer si sfoga, e tutto questo sarebbe vero se il suo sfogo rimanesse in un file, ma se va a disposizione della lettura di migliaia di persone, e se nel giro di pochi minuti 20.000 persone inneggiano al gesto del signor Tartaglia, beh, questo credo che dovrebbe preoccupare tutti, non soltanto il legislatore, tutti i cittadini, e se mi permette anche tutti i padri di famiglia, perché forse dovremmo pensare un po' di più a come viene squilibrato il cervello dei nostri figli che passano ore e ore davanti a questi siti. Vorrei senatore Pardi, un minuto e mezzo per chiudere. Lei teme, oggi l'Unità dice, ecco, un po' come anche ha detto Giglioli, non vorremmo mai che sull'onda di questo episodio, ovviamente da condannare, ora si approfittasse per fare una stretta, anche addirittura l'Unità dice una stretta per le manifestazioni di piazza, eccetera. Lei che le manifestazioni di piazza ne ha animate molte, anche i famosi girotondini. Certo che temo questa cosa, e nella logica che sta esprimendo Mantovano ci trovo tutte le premesse. Se mi sembra preso da una sindrome giustizialista e di apologia delle manette. Questi sono fenomeni sociali che non si possono irreggimentare con un controllo di tipo poliziesco. Il paragone anche con lo stadio non funziona per niente, perché il problema degli striscioni razzisti nello stadio è un problema di ordine pubblico, di mimesi, di folle, di masse in gioco che si confrontano tra di loro e che possono produrre anche istantaneamente, pochi minuti dopo la partita, dei disastri di ordine pubblico nelle strade. Qui invece è un confronto, se vogliamo, di sciocchezze, di frasi dette e accennate, di approvazioni, ma è una cosa del tutto priva di portata conseguenziale. Ha ragione Giglioli a dire: non sappiamo nemmeno se quel signore frequentava Facebook. Non c'è nessun rapporto. Giù le mani dalla rete, perché non vi azzardate a toccare la rete con la scusa di fenomeni di ordine pubblico o di aggressioni al presidente. Guarda, del su questo, no, sono su cose che non c'entrano. La difenderemo con le unghie e con i denti. Oh, giù le mani dalla rete, la difenderemo con le unghie e con i denti. Mi voglio fermare qui, grazie al senatore Pardi, grazie al sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano e Alessandro Giglioli, animatore insomma del blog, fondatore del blog Piovono Rane. Grazie a tutti, Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Continuate a votare, per ora sempre il 61% dice no al controllo, alla censura di questi siti. Ci fermiamo, a domani.